Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, nelle ultime settimane si sono moltiplicate le notizie di difficoltà finanziarie nell'ambito dell'euro. Si è parlato di una possibile bancarotta della Grecia, di gravi difficoltà della Spagna, di perdita di valore della moneta unica per la sfiducia degli operatori internazionali. Sono tutti elementi che dimostrano come la moneta unica abbia provocato più danni che vantaggi. E tra i danni metto soprattutto la pesante perdita di potere d'acquisto dei salari e degli stipendi. Non sarebbe ora di ritornare alle monete nazionali? Antonio. Caro Antonio, lei ha nostalgia della nostra vecchia lira, una moneta che negli ultimi anni non brillava certo per la sua forza, costretta come è stata a continue svalutazioni. No, non sono d'accordo. Il bilancio di questi primi 10 anni della moneta unica europea è certamente e largamente positivo. L'inflazione è stata messa sotto controllo, i tassi di interesse restano bassi, i mercati sono più trasparenti e gli scambi commerciali, così come i viaggi turistici, sono più facili e senza complicazioni valutarie. È vero, ci sono paesi come la Grecia che non riescono a rispettare i parametri comuni e che peraltro hanno truccato i loro bilanci per ottenere l'ingresso nell'euro. Ma i problemi di Atene non saranno certamente in grado di mettere in eccessiva difficoltà l'intera struttura della moneta europea. E per quanto riguarda il potere d'acquisto, è vero che possono esserci stati al momento dell'avvio dell'euro aumenti anomali dei prezzi, ma si tratta di fatti avvenuti 10 anni fa. La vera garanzia al potere d'acquisto è data dalla stabilità della moneta e dal basso livello di inflazione, elementi che l'euro garantisce, e ci sono tutte le condizioni perché possa continuare a garantirli. Bertolaso si deve dimettere perché, come ha ammesso lui stesso, non è né un contabile né un poliziotto. Pertanto non può gestire la funzione che gli è stata data. Sicuramente dovrebbe dare le dimissioni. Dovrebbero mettere qualcuno in grado di controllare maggiormente. Purtroppo ha agito con troppa faciloneria. Inoltre ci sono troppe zone d'ombra dovute ai rapporti con quegli imprenditori che sono sotto inchiesta. È necessario che la protezione civile si occupi solamente delle emergenze e non dei grandi eventi. Marco. Io credo che Bertolaso non si dovrebbe dimettere. Credo importante invece che si aprano tempestivamente le indagini su chi ha consentito la diffusione di informazioni relative alle indagini che sono, credo, ancora in corso. Se alla fine dell'indagine e del successivo giudizio, in tutti i gradi previsti dalla legge, risulterà l'innocenza di Bertolaso, che mi risulta non sia nemmeno stato rinviato a giudizio, i magistrati e i giornalisti che hanno suonato la gran cassa su questa vicenda pagheranno qualche cosa? E Bertolaso come verrà risarcito? Credo sia assolutamente necessario procedere a una profonda riforma della giurisdizione sul tema e per prima cosa è necessario che i magistrati, come tutti, debbano essere resi responsabili a tutti i livelli delle loro azioni. Gianluigi, Arabia Saudita. Ogni uomo ha le sue tentazioni e può darsi che Bertolaso abbia avuto le sue. Può darsi che abbia semplificato qualche passaggio burocratico, che sia venuto incontro a qualcuno. Forse sì, o forse no. Ma laddove egli è intervenuto, insieme al suo staff, è stato svolto un lavoro meticoloso, puntuale, di sostanza e professionale. E non parlo solo dell'Aquila. Bertolaso è un uomo in gamba, che sa fare il suo lavoro, e i fatti lo dimostrano. Queste sono le doti di un capo della Protezione Civile, i fatti, i risultati. E per i medesimi deve essere giudicato. Il resto è fango gratuito e soprattutto non richiesto. Gianluca, 24 anni. Quante imprecisioni sento dire sulla escort, sulla natura privata delle loro prestazioni, sulla corruzione, eccetera. Chiariamo. Io posso dare dei soldi a un amico in difficoltà? Posso regalare un quadro di valore a un parente che lo desidera? Certo, e non commetto alcun reato. Posso pagare una prestazione sessuale da escort a un collega che festeggia l'addio al celibato? Certo, ma in questo caso potrei incappare nel reato di favoreggiamento della prostituzione. Punto. Quando invece compio gli stessi atti per retribuire un favore che non mi era dovuto da parte di un pubblico ufficiale, cambia tutto. Non si può più parlare di privato, perché si entra nel pubblico, cioè nel campo penale. si approda, nel caso più comune, nel reato di corruzione. E tutti i miei donativi, il denaro, il quadro, la prestazione della escort procurata, non si possono più definire meri atti privati, ma sono tutte forme diverse della retribuzione, come la chiama il codice, o della mazzetta, come si dice giornalisticamente. Anche la prestazione sessuale in questo caso funge da mazzetta. Ovvio che l'esistenza della mazzetta va provata e quindi le indagini non possono prescindere dal contesto in cui è sorta la mia generosità e dalla effettività della dazione del denaro, del quadro o della prestazione della mia escort. E l'eccezione di privatezza di tale prestazione non può più essere sollevata né dal corrotto, pubblico ufficiale, né dal corruttore, privato che retribuisce, essendo essa diventata il mezzo, diciamo così, con il quale in quel caso si è realizzato il reato. Giuseppe. Egregio dottor Fabi, nel mio stato di uomo libero e liberale, desidero sottoporre alla sua attenzione che sono estremamente preoccupato e indignato del fatto che si stia facendo di tutto per limitare le intercettazioni telefoniche e ambientali. Anzi, penso che esse dovrebbero essere aumentate per combattere il malaffare e la corruzione, che dilagano sempre di più. D'altro canto, se chi si mette in politica o assume cariche pubbliche e fa di tutto per assumerle, ha paura delle intercettazioni, può fare benissimo a meno di candidarsi. Nessuno lo obbliga a farlo. Ma nel momento in cui viene eletto o gli viene assegnato un compito di responsabilità o di gestione di denaro pubblico, beh, allora è giusto che il popolo sovrano sappia se c'è qualcosa che non va e ne sia reso consapevole. Nessuno vuole fare i processi mediatici, ma la situazione in cui ci troviamo richiede la massima attenzione e la massima fermezza. Qui ci sono milioni di anziani a 400 euro al mese, milioni di operai a 1000 euro al mese, artigiani e commercianti che non ce la fanno più ad andare avanti. Se chi ci comanda e chi gestisce il denaro pubblico non lo fa con la massima parsimonia e rispetto, io ho il diritto di saperlo e voglio potermi regolare di conseguenza. Da uomo libero e liberale, voglio essere in grado di valutare ogni aspetto della vita pubblica. Massimo. Egregio direttore, non sono d'accordo nella pubblicazione delle intercettazioni per una semplice questione di legalità, parola che nel nostro paese viene usata giusto per dare aria ai denti. E questo da parte di tutti. È legale dunque pubblicare nomi e cognomi di persone trascinate in questioni dalle quali magari risulteranno completamente estranee? Ci rendiamo conto di quanto male si possa fare in questi casi? È legale fare sistematicamente carne di porco del segreto istruttorio? E allora, signori giornalisti e magistrati, perché vi indignate appena qualcuno osa toccare le vostre libertà e autonomie, salvo poi agevolare di fatto l'illegalità con le vostre azioni o con le vostre disattenzioni? Giuseppe, provincia di Milano. Caro direttore, mi era sfuggita la notizia che nell'ambito dei mondiali di nuoto a Roma 2009 fosse stata realizzata una piscina olimpica per gli allenamenti degli atleti lunga 51 metri e mezzo, quindi inutilizzabile per il nuoto. Un tempo eravamo più furbi. L'avremmo costruita più corta di un metro e mezzo, facendola passare per buona. Adesso è meglio abbondare del 3%, ma buona non lo è lo stesso. Questa piscina realizzata ad Ostia è completamente inutile. Qualcuno la riporterà alla giusta lunghezza o ce la terremo così a futura memoria? Sono un ingegnere e amante dei numeri, per cui non mi capacito di come possa essere stata realizzata una siffatta piscina. Pensi a una ferrovia con uno scartamento dei binari diverso. Per fortuna i campi di calcio hanno delle tolleranze in larghezza e lunghezza, ma nessun'altra per le dimensioni delle aree interne tracciate col gesso. Quindi, avanti col progetto europei di calcio 2016, che si disputeranno l'anno successivo all'Expo 2015 di Milano. Siamo proprio sicuri che possiamo reggere due eventi del genere in soli due anni. Agostino. Ho 60 anni e ricordo che quando sono nate le regioni, circa 30-35 anni or sono, si era esplicitamente detto che le province avrebbero dovuto scomparire. Gli anni sono passati, ma mi pare che le province non siano affatto scomparse. Anzi, se ne è fatta pure qualcuna di nuova. Franco. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.